che mi ricordi, proprio a fianco a Scava, non proprio di fronte ma di lato, in via Savoia, sì, dove c'è quel giardinetto, c'era questa installazione di un'antenna, sembrava una Ringo, però per i 50 MHz, e più c'era, mi pare, una bipanda tipo X30, X50, una cosa del genere. Forse tu alludi a quello, sì, però non l'ho mai conosciuto di persona, ecco. Sì, io già l'ho conosciuto di persona, magari se lo rivedo non lo riconosco, perché sono ormai passati tanti anni che non l'ho più rivisto. Ah, lui prima ci entrava molto spesso, entrava anche il 27, no, era un amatore, no? Però la 27 per lui era una cosa normalissima, perché parlava abbastanza nel 27, negli anni buoni, diciamo, dai, negli anni d'oro della 27. Poi è sparito, penso che aveva cambiato mestiere, perché il suo lavoro era quello di fare radio tecnico o qualcosa del genere, adesso di preciso non te lo so dire, nemmeno il punto dove era questa specie di laboratorio, comunque era lì dalle parti di Scarpa, o se era di fianco, o se era di fronte, non te lo so dire, però era così. Mentre invece Bettaverde era Viale San Francesco, proprio Viale San Francesco Bettaverde, salendo sulla destra, c'era, prima di arrivare alla scalinata della chiesa, c'era lui, c'aveva un laboratorio lì, ma è un vecchissimo cibira che ormai è morto da tanti anni. Io non l'ho conosciuto né l'uno né l'altro, perché vabbè, io sono entrato che ero molto piccolo, non avevo manco l'età di modulare a dire tutto, io sono stato un anno pirata, che la concessione doveva avere minimo 14 anni, poi con la tutela del genitore, no, io ne avevo 13. Il primo contatto è stato Paoletto, ovviamente, perché Paoletto aveva il radar per i tenerelli, capito? Appena entravi sul canale ti intercettava, e poi Paoletto aveva il vizio di stare sul canale 11, che era il canale dei portatili della 27, portatili magari non giocattolo, quelli giocattolo erano sul 14 come canale, quelli da 100 mW, invece questi già da 1, 2, 3 watt, 4 watt avevano il canale 11 in serie, e lui era lì pronto al varco, come intendia uno subito, chi sei, come ti chiami, ma sei peloso. Sì, l'ho conosciuto anch'io, l'ho conosciuto, no? Vabbè, era un po' purtroppo era malato quello lì, la gente lo prendeva in giro anche. Adesso so che vive a Sorso, credo con la sorella o nella casa della sorella, non lo so. Stai parlando di quello dei marmi, dai, stai parlando. Sì. Ma poi negli ultimi anni che lo vedevo sempre dalle mie parti dove lavoravo io, perché lì c'era un calzolaio, all'angolo di Via Nurra c'era un calzolaio, c'era, e lui era diventato amico di questo Mario calzolaio, e di tanto in tanto andava lì a fargli visita, ma stava mattinate intere seduto lì in calzoleria insieme a questo Mario che prima faceva il calzolaio, adesso non lo so se lo fa ancora, perché lo faceva insieme al padre, poi il padre è morto e per cui abitava sempre lì in via nella zona di via Bottego abita. Sì, no, se ho capito Paoletto, no, già l'ho conosciuto, la gente a me mi dava fastidio quando lo prendevano in giro, la gente lo prendeva in giro, anzi lo sfruttava addirittura, lo invitavano in pizzeria, poi facevano pagare tutto a lui, siccome era un ragazzo che qualche soldo ce l'aveva sempre in tasca, perché la mia famiglia era tante, e allora la gente ne abusava, ne approfittava, ma quelle sono vigliaccate, quelli sono persone vigliacche per conto mio, manco. Lo so, però io più che le prese in giro, perché vabbè, al baracchino era tutta una presa in giro, tutti pigliavano in giro tutti negli anni 80, no? Si facevano a pezzi l'un l'altro. Brutto è quando gli estorcevano denaro, capito? lo importavano per farci dare 100.000 lire, roba del genere, oppure ho sentito qualcuno l'aveva portato in pizzeria per farci pagare la pizza, poi lo riportavano a casa, poi lo riportavano a casa, lo coprivano di insulti o magari erano già medio ubriachi. Cioè, quello è ancora più brutto però, quello della presa in giro, capito? Quello di sfruttarlo per i soldi e poi lo mandavano al diavolo, capito? Seppure qualcuno non gli ha messo le mani addosso, di questi ragazzetti strani che entravano, giovani. Vabbè. Anzi, gli scherzi bancari, gli scherzi ufficiali, quelli organizzati erano il meno peggio, dai. Era una goliardata quella più che altro, come la storia del fantasma, la storia del sombrero, quelle cose lì erano cose più innocue. Sì, lo sfruttavano così, poi alla fine gli avevano rovesciato l'antenna più di una volta, proprio piegato il palo, proprio così per dispetto, che poi se non lo prendessero in giro come facevano non sarebbe stato nemmeno così, perché sì, era una persona malata, infatti prima viveva San Camillo, purtroppo era uno di quei ragazzi così che è stato sfortunato nella vita e allora poi ha conosciuto i genitori, gliel'avevano comprato, gliel'avevano e la gente ne abusava, ne approfittava, perché andavano lì a casa sua, lo prendevano con la scusa che di portarlo in giro a passeggiare, eccetera, eccetera, poi lo portavano in pizzeria e facevano pagare tutto a lui, facevano pagare. E poi so benissimo che gli aveva anche rovesciato l'antenna, addirittura, proprio piegato il palo, no? Perché era andato lui a casa sua, un giorno o la notte, non mi ricordo bene se era di giorno o di notte, e gli aveva proprio piegato il palo, gliel'ha messo orizzontale il palo, con tutta l'antenna piazzata, per dire. Vigliacacche, vabbè, comunque, sono persone maleducate quelle, anzi io li considero delinquenti, perché si può immaginare, io la penso così. Poi io nella vita ho sempre cercato di vivere sereno e tranquillo, con onestà e senza fare vigliacate, senza fare dispetti mai a nessuno, perché ognuno di noi ha i suoi problemi, ha sempre avuto, e non per questo il ragazzo era così handicappato che lo dovevi trattare in quella maniera, assolutamente no. Era da deficienti, anzi più deficienti del malato, che poi tra l'altro non era deficiente lui, era solo malato e basta. Sì, a quanto ho capito lui il danno suo intellettivo era dovuto alla nascita e al forcipe. Il forcipe, no, per afferrare la testa del bambino, per aiutare a tirarlo fuori, è stato stretto un po' troppo e mi dicono i familiari, no, cugini eccetera, che diciamo il danno fosse scaturito da quello, dai. Nel frattempo mi stavo guardando le antenne che ti dicevo. Aspetta che ho bisogno di bere, Giulio, prendo in fretta la bottiglia dell'acqua. E c'è in vendita comunque questa antenna qua, vedi? Sigma SX80, 129 euro, quella in alluminio, 129 euro, pronta all'uso. Naturalmente un'antenna del genere è un forte compromesso, no? Forte, molto molto forte. Però se uno la volesse migliorare potrebbe fare almeno, se ha la possibilità, un radiale adeguato per ogni, aggiungere, cioè un radiale per ogni banda. Per i 40 metri gli fai un radiale adeguato tipo 10 metri, insomma gli fai un radiale, un quarto d'onda per ogni banda, capite? In modo che ogni banda almeno abbia un radiale risonante per migliorare le prestazioni. Ma alla fine uno che ascolta o si accontenta, tanto per l'ascolto servirebbe. Però chissà perché ci sto ronzando intorno da un po'. L'altra invece costa di più, costa 170 euro, è alta 5,50 m, però questa fibra di vetro bianca è un po'... non lo so. C'è solo tre elementi, mi pare tre elementi da tre o quattro, da per sia lo stile anche. E si innestano a vite, capito? È facile anche da montare, è di un'estrema facilità. Vabbè, è così, ogni tanto mi corteggio roba che poi non userò mai, perché c'ho già roba da parte, per esempio c'avevo l'antenna UHF Diamond, la BC202, che è solo per la UHF, nuova imbustata, l'avevo solo provata e poi messa via. Poi c'ho quell'antenna sempre UHF della Sirio, quella corta corta, J-Pol, alta 60 cm che usavo per il TMR, tutto messo da parte, c'ho una marea di roba da parte, antennine veicolari non te ne dico. Piuttosto questo amico che a Piazzale Signi faceva i collegamenti dalla barra mobile, ma ti ricordi che antenna usava? Hai detto quella per caso con gli spinotti che mettevi a diverse altezze in base alla banda? Sì, era praticamente una frusta nera con tutte le prese e tu non facevi altro che spostare lo spinotto e lui si ripide la banda che volevi usare, tutto lì. Era buona, vabbè, da quell'altezza lì, sai, dal quadrato, sei già in altura, eccetera, e poi evidentemente il giorno magari ci sarà stata anche una buona propagazione, e ha fatto un lungo QSO dalla macchina direttamente, c'eravamo diverse persone presenti, eravamo 5 o 6, forse anche 7 persone, che adesso non ricordo nemmeno che fossero tutti, però lui l'ha fatto il collegamento tranquillamente, non c'era problema. Non è che hanno grosse prestazioni in trasmissione, sono antenne di pochi watt, eccetera, penso 100 watt massimo. Però diciamo che andava bene, era efficiente, il giorno perlomeno andava benissimo, poi se ti trovi magari in un altro punto della città, in un'altra zona più in basso del quadrato, non lo so fino a che punto possa andare bene, capito Marco? Sì, diciamo l'antenna veicolare per l'HF è un compromesso grande, va bene, che ne so, fino ai 20 metri, 40 metri anche, però 80 metri comincia a diventare troppo caricata, capito? In rapporto alla lunghezza totale dell'antenna è troppo caricata. Sì, quell'antenna potrebbe essere quelle tipo Proxel Pro X1 oppure quelle altre, aspetta, che marca avevano, adesso mi sfugge. Avevano proprio quello spinotto lì che collegavi sia alla base sia a una certa altezza, in modo da bypassare alcune sezioni alcune bobine dell'antenna, in modo da usare solo la banda che ti interessava. Comunque era un sistema intelligente e funzionava. Io lo stesso lo testo, aspetta che abbasso il volume con questo CW, ecco. Io ho avuto modo di testarla in macchina, tararla anche per vedere se risuonava effettivamente, ti garantivo che risuonava, funzionava anche bene, e c'aveva mi pare 100 kHz di larghezza di banda senza accordatore, cioè ti faccio un esempio, se la taravi a 7000, a 7100 avevi circa 2 di stazionaria e lo stesso a 6900 lo stesso di stazionaria, quindi era molto stretta, però se avevi l'accordatore potevi spaziare per tutta la gamma di 40 metri per dire. Ed era la stessa antenna che io con un'aggiunta, perché pensa che mettendo lo stilo tutto lungo e usando la banda dei 40, il ponticello dei 40, non riuscivi a toccare nemmeno lontanamente i 45 metri, allora io avevo messo un piccolo mammut in punta e avevo calcolato lo stilo da aggiungere, tarata proprio 6.580 o 5.90, taratissima, ero a Balai, sopra la chiesa di Balai, no, lì, dove c'è l'ancora, proprio adesso. Mi ricordo sempre, ho fatto... e mi risponde la voce continentale, allora il fischio, quindi così a schiocco di dita, un fischiettino è bastato per, mi sentivano, capito, dall'altra parte d'Italia, troppo facile, poi non ne ho fatto mai però di collegamenti pirateschi, da. Ok, allora in quel periodo avevi 140, avevi così, No, meglio, il 140 in macchina andava male, nella mia, non so perché. Avevo l'857 che faceva tutto, tutta l'HF, i 6 metri, la V e la U. Anzi, ti dirò di più, che partiva da, adesso non mi ricordo quant'era, l'857, 1 MHz, riuscivi a fare in copertura continua, quindi da circa 1 MHz fino ai 56 MHz, copertura continua, cioè tu sentivi un taxi sui 43 MHz, volendo potevi entrare a parlarci, avendo l'antenna risonante naturalmente. Copriva tutto, tutta quella banda lì, cioè non solo i 6 metri, quindi 50 metri, andava anche oltre, era espanso. No, poi la V, tutta la V, bella larga, la U. E quella prova l'avevo fatta con l'857 però, capito? Ma è stato un fischio subito, ho detto, un Dio, avanti che fischia. Ho detto, no, troppo facile. No, ma poi è un rischio terrificante dalla macchina, ci mancherebbe. Anche perché Sandro mi aveva raccontato un aneddoto. Una volta lui è uscito, che aveva l'antenna lì, no? La casa lì, davanti all'ancora. È uscito di casa per andare normalmente al lavoro, c'aveva il furgone lì. Come sarà il suo furgone? Butta l'occhio dietro, è dietro casa sua, proprio nella via che sale, quella salitina che costeggia la sua casa, aveva visto il furgone dell'Escopost, dice che gli si è gelato il sangue. Per fortuna non aveva, non è che l'abbiano fermato, e forse non aveva niente nemmeno nel furgone di CB o di lineari, però gli si è girato il sangue, è diventato non bianco di più. Sì, non so dove abita Sandro, lo so, io ci sono stato qualche volta a casa sua, gli avevo fatto qualche lavoro anche, per cui se diciamo che l'ultimo lavoro che avevo fatto da falegname, avevo fatto delle porte per casa sua, le avevo installate eccetera, perciò sì. E poi ripeto, lui aveva la Mantova, cioè la Game Master, quella che ho io, ce l'aveva lui montata a casa, e il vento gliel'aveva spezzata, però gliel'aveva spezzata al centro praticamente, più o meno al centro, perché lui aveva ancorato la punta dell'antenna con dei fili di nylon in tre o quattro posizioni, e si vede che il vento è arrivato talmente forte che ha spinto centralmente, non avendo l'oscillazione l'antenna gli era spezzata. E poi da lì l'aveva data a me, io gliel'avevo pagata, e dunque, e adesso ce l'ho io da tanti anni, da diversi anni, è tutto lì, Marco. Però poi lui credo che abbia dismesso tutto, non credo che abbia più niente, almeno suppongo che non abbia più niente, se ha qualcosa ce l'ha magari in campagna, perché l'ultima volta che l'avevo sentito risale ad anni fa, lui aveva un'antenna in campagna, così aveva, e ce l'avamo sentiti più o meno, non dico nella mia zona, ma vicino abbastanza, in zona abbastanza limitrofa alla mia, per cui poi non l'ho più sentito, perché si è disfatto di tutto, dai. Oh Giulio, dimmi Marco. Guarda, a metà passaggio non ce l'ho fatta a resistere, sono dovuto scappare in bagno perché avevo la vescica gonfia come una zampogna. Io dicevo no, io già posso aspettare, invece sono dovuto andare in bagno in fretta, quindi ho sentito metà passaggio. Se mi puoi ripetere l'ultima parte del passaggio? Sì, stavo dicendo che l'antenna che io la Game Master prima era di Sandro, so dove abita perché gli avevo fatto anche dei lavori, anzi l'ultimo lavoro che ho fatto da falegname era proprio a lui, che ormai ero già in pensione, ma mi aveva chiesto se glieli facevo, gli ho fatto, mi sembra, se ricordo bene, tre porte, adesso non mi ricordo, ma comunque dovrebbe essere così. E gli avevo installati a casa sua, no? E dunque sono vera. lui l'antenna gli si era rotta, il vento gliel'aveva rotta, perché l'aveva ancorata la parte alta della Game Master, l'aveva ancorata con del filo di nylon, dunque non aveva modo di oscillare, però il vento ha spinto al centro dell'antenna e gliel'aveva rotta lì. Mentre invece è un errore ancorare la punta dell'antenna, perché se no te la rompe veramente il vento, invece la lasci libera di oscillare tranquillamente, non c'è problema, va benissimo così. Stavo dicendo, poi Marco Sandro aveva dismesso tutto, non aveva più niente. So che l'ultima volta che l'ho sentito quando era in campagna, lui ha una campagna, o penso che la campagna dove c'è la madre, non lo so, nella mia zona stesso, non proprio di punti, ma un po' distaccata dalle punti, penso intorno a tra Ottava e San Giovanni, credo. E l'avevo sentito l'ultima volta lì. Poi ci siamo sentiti quando era fuori, quando addirittura era in America, aveva cambiato addirittura hobby, aveva cambiato, si era dato anche l'automobilismo, e insomma diciamo poi non l'ho più sentito, ormai sono già qualche annetto che non l'ho più sentito, dunque non so più niente. È stato anche in corso, che è stato tante volte, per un bel periodo di tempo che ha lavorato lì, poi aveva cambiato lavoro, aveva cambiato mestiere, capito? Infatti, a quanto sapevo non abitava manco più lì. È certo che lì la posizione era buona, però ti beccavi tanto di quel vento, e lì non avevi palazzi, proprio lì ti arrivava dal mare il vento selvaggio, lì se non avevi l'antenna piazzata benissimo rischiavi che si spezzasse, come gli era successo una volta, o forse più di una volta. Io non mi ricordo quante antenne abbia avuto lui, però mi ricordo almeno due volte lì si dovrebbe essere spezzata. Una probabilmente era la Game Master, come detto, e l'altra non so che antenna fosse, non so nemmeno se lui avesse provato quella americana, la Solar con i Max 2000, però forse mi sto sbagliando, non era lui che l'aveva provata. E poi sono passati anni, ormai non me lo ricordo più. Sì, in effetti è così. Lui è davanti al mare, lì proprio, davanti alla spiaggia, lì vento a voglia, quando soffia il maestrale, lì soffia forte veramente. Però, ripeto, se l'antenna la lasciava libera, non gli sarebbe spezzata. Allora, una volta che si è spezzata, poi l'aveva venduta a me, me l'avevo comprata io, e ce l'ho sempre, ma ce l'ho proprio almeno 6 anni, all'incirca così, mi è sempre piazzata così, ma sempre bene, tranquillo e pacifico, non c'è motivo nemmeno di cambiarla, cosa cambia a fare? Ho anche la Mantova Turbo, ma non l'ho più usata, l'ho messa da parte, perché non me ne faccio niente. Poi avevo anche autocostruito uno, io con la canna da pesca, e ce l'ho anche quella. In pratica ne ho 3 antenne, più anche una boomerang, quelle antennine di una volta da balcone con un radialino da 40 cm, e l'antenna lunga una frusarella, lunga all'incirca sarà 1 metro, 1,20 m. Anche quella, ma quella ce l'avrò, quell'antenna lì ce l'avrò più di 50 anni, da quando ho iniziato praticamente, ce l'ho sempre quell'antenna lì, ma è un'antenna che funziona, non è che non funziona, funziona bene, però non è che abbia una grande resa, è un antennino, capito? Sì, aveva provato anche un'antenna corta, una mini Grand Plane, mini Grand Plane, che lui caricava di watt ovviamente, però la mini Grand Plane, poi lo scocciavano, mi ricordo che lo scocciavano le vicine, non so se abitassero altre persone nel palazzo, quando capito lì nella palazzina, lo scocciavano perché l'antenna fischiava, no? Come il vento arrivava e fischiava, non so se attraverso i radiali o attraverso lo stilo lì, sentivano fischiare e lo scocciavano. Perché lì era anche proprio sulla palazzina, non era come me, lontana sul tetto, distante praticamente 4 piani di differenza ci sono da qui all'antenna, da casa mia all'antenna, lì era proprio sopra, c'era sopra la camera da letto praticamente. e lì poteva essere seccante, però boh, bisogna vedere fino a che punto. E a quel proposito, vabbè, tornando a quell'antenna lì, quella con le prese calcolate, io ce l'ho sempre la Proxel Pro X1 e era un'antenna che funzionava bene, soprattutto non era troppo corta, ma ti dico perché. Perché certe antenne fatte dalla Comtrac, dalla Diamond, eccetera, no? Vendeva gli stili singoli per ogni banda, per dire, no? Però poi andavi a vedere questa antenna, un'antenna veicolare per i 40 metri, lunghezza 1,10 m, massimo 1,15 m. Cioè 1 metro è già poco, nel 27. Immagina quanto doveva essere corta. Invece questa Proxel Pro X1, per esempio, per i 40 metri si regolava 1,76 m o 1,78 m di lunghezza totale. Quindi, per dire, c'era già una differenza da 1,10 m, 1,15 m a 1,78 m, aveva già più stilo radiante, capito? Meno bobina e abbastanza stilo radiante. Mentre certe antenne amatoriali, adesso non mi ricordo se era la Diamond o di che marca, praticamente era tutto bobina e lo stilo radiante poi era un mozzicone da mezzo metro, nemmeno mezzo metro. E lì certe cominciava a essere un pasticcio, dei carichi fittizi veri e propri. Sì, quando lo stilo è così corto, anche se c'è la ricompensa della bobina che integra la lunghezza dell'onda necessaria, ma si sa, essendo lo stilo corto, la resa è quella che non è un granché, se lo sappiamo benissimo. Va bene, comunque, tu adesso immagina, ci sono già l'una meno un quarto, quasi, per esattezza 12:43, non è entrato nessuno in tutta la mattinata, nemmeno Natalino, magari non so se era l'ascolto o meno, non entra nessuno, ormai ripeto Marco, il baracchino è finito, l'era del baracchino è finita già da tempo, e come vedi ci siamo rimasti solo noi, i vecchissimi CB e tutti gli altri che di tanto in tanto si fanno sentire sono altrettanto vecchissimi CB, ma gente nuova, gente giovane soprattutto, no? Vabbè, tu sei ancora giovane di età, non entra nessuno assolutamente, è finita la moda del baracchino. Oppure, vabbè, oggi è domenica, che è? Una chiamata? Ha interrotto subito. Che strano. Vediamo se c'è qualcuno che vuole entrare sugli 10 avanti. Aspetta che faccio questa chiamata, Giulio. Oppure ci lasciamo qua, non so. Dai, così magari vai a mangiare, io mi preparo anch'io qualcosina per la giornata, per il pranzo, e poi si sentirà con calma. Va bene, d'accordo, ma abbiamo parlato per oltre un'ora, forse un'ora e mezzo, anche di più, non lo so di preciso, sì, forse più di un'ora e mezzo anche. Ma per dirti, no, com'è la situazione è quella che ti ho appena detto, la frequenza ormai sa essere dimenticata un po' da tutti. D'accordo Marco, dai, buon pranzo allora, dai, ci sentiamo. Non l'ho più sentito Natalino, volevo sapere notizie di lui, ma comunque, perché lui è stato operato, volevo sapere se stava bene, eccetera. Ma suppongo di sì. Ci sentiamo alle prossime. Grazie per la chiacchierata, Marco, alle prossime. A risentirci. Ciao ciao Marco, ascolto Pilarino e poi chiudo, vai. Ciao. Allora, Natalino sì, era stato operato, però anche nel posto operatorio a casa aveva dolori lo stesso. Io speravo che gliela risolvessero con un bel po' di antidolorifici, quelli buoni. Invece dopo l'operazione sì, è stato, ma due giorni dopo mi pare l'hanno mandato a casa. Io credo che facessero anche più terapia, più degenza lì, più antidolorifici buoni, ma buoni mi. Invece l'hanno mandato a casa, era dolorante, poi dal giorno non l'ho più chiamato perché ti ho detto qua è diventato un cantiere, ogni dice c'è roba da fare, quindi poi ero senza PL anche, in 27 non sono entrato al telefono, non l'ho chiamato, ho detto vabbè ci sentiremo in migliori, gli ho detto ci sentiremo in migliori condizioni, però anche lui non ha richiamato, non voglio disturbarmi ancora, secondo me bene bene non sta, non avrebbe già chiamato se no. È probabile, o magari non ha acceso, chi lo sa, boh. O è andata a farsi una passeggiata così per dimenticarsi magari e per cercare di stare meglio da qualche parte, distraendosi. Va bene Marco, dai, ti saluto di nuovo, alle prossime ci sentiamo. Se coincide può essere che ci sentiamo anche stasera, se sei a casa, non lo so. Vedremo, ok? Ciao Marco, grazie ancora per la chiacchierata, buon pranzo. Ciao Giulio, grazie anche a te per la chiacchierata, così ho collaudato il nuovo barilotto eccetera e la stagnatura, dai, come si dice, la agglomerante, speriamo che resista il PL, quello un po' più vecchio. E buon pranzo, buon tutto, ci sentiamo quando capita, ok Giulio, ciao, buona giornata. Ciao Marco, ciao.